Point of No Return per la formazione dei Kansas. Paolo da Firenze mi dice: a che ora chiuderà la radio all'incirca? Guarda, senza all'incirca cercheremo di essere precisi, alle ore 18 spaccate del sabato 31 maggio si chiuderà. Si inizia questa 24 ore dove parteciperanno tutti o al 98% tutti i DJ che hanno fatto la storia dei 18 anni di Rock FM. Si partirà con loro il venerdì 30 maggio alle ore 18 e chiuderemo il sabato 31 maggio alle ore 18. Ok Paolo, buona giornata a te. Ancora una volta vado a salutare Paolo di Granarolo Faentino che ci ascolta da 2 anni, eccetera eccetera eccetera. Grazie anche a te per le belle parole, ti auguro buona giornata. E in arrivo, no, il prossimo Tristassi non è in questo momento, perché per ora ci sono i Kiss con le note di Harlock Woman. A proposito di Kiss, li abbiamo già avuti telefonicamente 20 giorni fa, di sera, insieme a Claudia. Lunedì prossimo però, e sarà anche l'unica tribute band che ospiteremo nel corso della nostra ultima settimana, ci saranno dal vivo le Kiss Sexy qua da noi. If never I held you, my feelings would never show. It's time I start walking, but there's so much you'll never know. I keep telling you, hard luck woman, you ain't a hard luck woman. Red sailor's only daughter, a child of the water, too proud to be a queen. Red, I really love you, I can't forget about you. You'll be a hard luck woman, baby, till you find your man. Before I go, let me kiss you and wipe the tears from your. Don't wanna hurt you, girl. You know I could never lie. I keep telling you, a hard luck woman. You ain't a hard luck woman. You'll be a hard luck woman, baby, till you find your man. Red, the sailor's only daughter, a child of the water, too proud to be a queen. Red, I really love you, I can't forget about you. You'll be a hard-luck woman, baby, till you find your man. You'll be a hard-luck woman, baby, till you find your man. Woman, la formazione dei Kiss. Continuiamo con i saluti che sono in questi giorni veramente tanti tanti tanti. Luca da Viareggio ci fa sapere se si potrà, sì si può, penso di sì, insomma si potrà stare. Un salutone anche al Piastrella da Firenze, una buona giornata anche a te. E dicevo, e come faccio io adesso a lavorare senza di voi? Come facevi prima, no? Hai sempre lavorato e lo farai ancora, dai, coraggio, coraggio. 9:41 minuti primi, Tristassi in arrivo con Who Cured Band. We'll be right back. kind of hooker you need. The summertime blues. The summertime. Yeah. we're gonna have fun. Yes. Good Rocking Tonight. Dalle 22 di sabato 24 maggio fino alle 8 del mattino seguente, una non stop in diretta con il Faulisi e con mille canzoni rock and roll, rockabilly, boogie e surf. Un'intera notte di spassosissimo, grintosissimo, divertentissimo rock and roll dalle 22 di sabato 24 maggio su Rock FM. I Shall Be Released, The Band. Le note di questa canzone ci accompagnano alle 9.51 minuti primi. Notizia particolare legata al 23 maggio del 77 nella storia dei Jefferson Starship. Devono annullare in quel giorno un concerto che era previsto al Golden Gate Park di San Francisco, un concerto gratuito. Quindi si pensava, si supponeva l'affluenza di centinaia di migliaia di persone, proprio perché è gratuito in una grossa area, gli viene proibito non tanto di suonare ma di usare l'amplificazione, quindi di suonare acustici. Capite che in un parco suonare acustico è quasi impossibile. Alla fin fine poi racconteranno che il brano We Build This City, che arriva quando si chiamano Starship, hanno perso parte del loro nome, cioè Jefferson, è stato ispirato proprio a quell'episodio. We Build This City, Starship. We Build This City. Say you don't know me. Feel This City of Rock and Roll, così cantavano gli Starship un po' di anni fa. Sergio da Milano mi dice: oggi è finito pane, burro, rock and roll, tu ci sarai la prossima settimana. Ci saremo tutti la prossima settimana, come però ha spiegato Ariele. Ci concentreremo nella grossa fase del pomeriggio e sera, perché è lì che avremo tantissimi ospiti che poi pian piano vi segnaleremo, quindi io potrei esserci a mattinate alterne. Questa settimana, oltre a pane, burro, rock and roll, che si è chiuso oggi, si è concluso anche il mio spazio serale di Hard and Heavy. E vabbè, ma però questo è segnato, se il 31 è il 31, cosa possiamo fare? Max da Genova, grazie a te naturalmente che mi segui addirittura dai tempi di Radio Peter Flowers, così come Ivano da Secugnago, che non può esserci il 31, anche perché, se non sbaglio, è il suo compleanno. Eh sì, anche il mio in effetti. E quindi ci risentiremo comunque. Un salutone, un abbraccio a Tina, buona giornata a te. Tutti i patentati della cucina Colombo salutano Rock FM, soprattutto i programmi mattutini, per il grande aiuto nel loro lavoro che abbiamo effettuato e abbiamo svolto. Un saluto anche allo Squalo. E detto questo, ritorniamo alla musica. Tra breve terminerà anche la nostra prima ora delle tre che ci porteranno sino alle 12, e poi in questo periodo troverete, in queste ultime tre settimane, in effetti dal 5 di maggio, che dalle 12 alle 14 è in onda Claudia. Signify your feelings with every gentle caress. You got it's so important to have that special somebody to hold, kiss, miss.